Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi torniamo a cantarcela e a ballarcela, perché il nostro protagonista è un cantante che ha più di 50 anni di carriera, una serie incredibilmente lunga di successi internazionali, canzoni bellissime che conosciamo tutti, canzoni che fanno parte delle nostre vite, anche delle vite dei più giovani. Sono la colonna sonora di un'epoca. Lui continua a cantarle, a riproporle, sono state cantate anche da molti suoi colleghi, sono diventati degli standard amatissimi da molte generazioni. E lui continua a cantare oggi, anche se ha più di 70 anni, continua a registrare il tutto esaurito nei suoi recital, a frotte di fan e soprattutto donne che impazziscono per lui. È una persona che a un certo punto della sua vita ha avuto un un lieve calo, direi, fisiologico, no? Il successo stava forse per, non dico abbandonarlo, però insomma era un po' calato. Dopodiché ha avuto veramente dei colpi d'ala notevoli che l'hanno riportato in vetta a tutto, classifiche comprese. Oggi parliamo del grandissimo Tom Jones, il mitico cantante gallese soprannominato la Tigre del Galles per la sua forza, per la sua carica sensuale, per la sua fisicità prepotente. La sua voce baritonale è potente, è profonda, è rimasta inalterata nel tempo. A quelli che gli chiedono come sia possibile questa sua longevità anche fisica, lui risponde così. Il mio dottore mi dice che sono costruito bene. Il suono che tu produci, dice, ha molto a che fare con la tua testa, oltre che con le tue corde vocali, perché il suono passa attraverso la tua faccia. Tu canti attraverso la tua struttura ossea, oltre che attraverso quello che c'è nella gola. Insomma, il dottore mi dice che sono semplicemente costruito bene. Mi dice che ho dei buoni geni. E io ascolto molto interessato al tema. Comunque lui canta da oltre 50 anni, è stato protagonista di migliaia di concerti nel mondo, ha venduto nella sua carriera oltre 100 milioni di dischi. Tom Jones è sicuramente una delle figure più conosciute nel panorama musicale internazionale. Lui è una leggenda vivente, passa da un recital all'altro, è stato insignito dell'ordine dell'impero britannico, la regina Elisabetta gli ha conferito il cavalierato, quindi può essere chiamato Sir Tom Jones. Ovviamente ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame, ha segnato diversi primati, è stato il primo artista britannico a avere un suo personale show televisivo negli Stati Uniti e sembra che abbia anche un altro primato, quello del maggior numero di conquiste femminili. Love is like candy on a shelf. Tom Jones, il suo vero nome è Thomas Woodward, nasce il 7 giugno del 40 a Pontypridd, è un villaggio di minatori nel sud del Galles, e il padre infatti è un minatore di carbone, la madre Freda Jones sarà una figura importantissima per lui, tanto che quando lui dovrà scegliere il suo nome d'arte, Tom sceglierà proprio di chiamarsi Jones in onore della madre, e lui canta da sempre, fin da quando era bambino. Ho sempre voluto diventare un cantante, fin da bambino. Cantavo a scuola, in chiesa, alle feste, ogni volta che ne avevo l'occasione. Tutti mi dicevano, diventerai una star, sarai famoso. E quando sei un bambino e te lo dicono sempre, alla fine ci credi. Ma poi, quando cresci, la realtà è ben diversa. Io mi sono sposato giovanissimo. Ho avuto un figlio che non avevo ancora 17 anni. Avevo una famiglia da mantenere, quindi dovevo trovare un lavoro per guadagnare dei soldi. Eh sì, avete sentito bene, Tom ha un figlio quando non ha ancora 17 anni e in effetti la sua adolescenza non è stata esattamente quella tradizionale, la scuola non gli piace per niente, a 12 anni gli viene diagnosticata una tubercolosi polmonare che gli impone una lunga degenza e una lunga convalescenza a casa. Lui è felicissimo perché rimane un paio d'anni chiuso in casa a ascoltare musica in continuazione. A 15 anni lascia gli studi, inizia a lavorare in una fabbrica di guanti, però a scuola si era innamorato di una ragazza, Melinda Trenchard, una sua compagna di classe, così quando lei a 16 anni scopre di essere incinta, i due si sposano il 2 marzo 57, un mese dopo lui l'11 aprile nasce Mark, l'unico figlio della coppia, che peraltro diventerà manager del padre dalla metà degli anni 80. Tom deve lavorare per mantenere la moglie e il figlio, è un impegno importante per un ragazzino come lui. Cambia lavoro, fa il venditore porta a porta, il muratore, però la notte canta nei pub. Nel 63, con il nome d'arte di Tommy Scott, diventa frontman di un gruppo beat della sua zona. Si chiamano Tommy Scott and the Senators. Lui è già un personaggio perché si presenta sul palco tutto vestito di pelle nera, pantaloni attillatissimi, fisico possente, voce molto possente. Ci mette poco a diventare famosissimo in tutto il Galles, ma di certo non si può immaginare che di lì a poco avrà praticamente tutto il mondo ai suoi piedi. Il falco e il gabbiano. Una sera del 1964 il gruppo Tommy Scott and the Senators sta cantando al Top Hat Club di Camtillery nel Galles del Sud. La gente è arrivata da tutte le parti del paese per ascoltare, ma anche per vedere quello che loro chiamano Tommy Scott e che presto diventerà Tom Jones. Soprattutto ci sono molte ragazze, le sue interpretazioni, il suo modo di cantare, la sua voce, insomma il pubblico sta impazzendo. Tra questo pubblico c'è anche Gordon Mills, che è un cantante e compositore che ha prodotto alcuni dischi a Londra. Anche Mills è molto giovane, ha solo 29 anni, ma ha un fiuto incredibile nello scovare talenti. È voluto venire di persona a vedere quel ragazzo dalla voce unica di cui tutti stanno parlando. Insomma, Gordon Mills non ha dubbi, quel 24enne che si sta esibendo sul palco è destinato a diventare una grande star. Alla fine del concerto va a parlargli, gli propone di diventare il suo manager. Il gruppo Tommy Scott and the Senators arriva a Londra ed è un cambiamento epocale per loro. Sono tutti ragazzi di paese, abituati a cantare nei piccoli locali. Gordon Mills capisce subito che deve puntare tutto su di lui, su Tom. Non è una band che lui vuole lanciare Tom Jones. E Tom Jones perché il cognome gli viene cambiato e lui, come abbiamo detto, prende il cognome della mamma. E gli altri del gruppo presto usciranno di scena. Così è la vita. In quello stesso anno, nel 64, Mills produce il primo singolo di Tom Jones, Chills and Fever. Good evening. This is BBC Two. First in view this week is this tall, handsome lad called Tom Jones, who now gives us his latest record title called Chills and the Fever. Il successo di questo primo disco non è grandissimo, però si intuisce già che Tom Jones è potente, ha una voce incredibile, basta solo trovare il pezzo giusto e il pezzo giusto arriva. È una canzone straordinaria che ha una storia altrettanto straordinaria, perché Gordon Mills aveva scritto poco tempo prima con Les Reed, che è un suo amico e compositore, un brano molto bello. Voleva proporlo a Sandy Shaw, ve la ricordate, la cantante scalza. Per farle sentire questo brano, Mills chiede a Tom Jones il favore di registrare una demo. E lui interpreta questa canzone con una carica, con una voce matura, sensuale, che non sembra la voce di un ragazzo di 25 anni, sembra più grande, un interprete già adulto e formato. Sandy Shaw ne rimane fulminata e insiste perché Mills affidi a lui, a Tom Jones, l'interpretazione di quel brano. La canzone ha un successo immediato, clamoroso, va al primo posto nella hit parade del Regno Unito, entra nella top 10 degli Stati Uniti, è un colpo d'ala straordinario. Nasce una star, il brano è uno dei più famosi e più venduti al mondo. It's not unusual. It's not unusual to be loved by anyone. Pensate che tra i musicisti che suonano alla registrazione di questo disco del 65 c'è alla chitarra un certo Jimmy Page, che a quel tempo faceva ancora il turnista, ma stava per diventare Jimmy Page, quello degli Yardbirds e soprattutto quello dei Led Zeppelin. It's not unusual traghetta Tom Jones nell'Olimpo delle star mondiali da un giorno all'altro. Diventa una celebrità acclamata da tutto il mondo. Tutti si domandano da dove arrivi questo portento. È spuntato così dal nulla. E il suo primo album, che esce quello stesso anno, si intitola Along Came Jones, cioè è arrivato Jones, proprio a sottolineare la sua irruzione nel mondo della musica americana e mondiale. Il successo è tale che pochi mesi dopo a Tom Jones viene affidata niente meno che l'interpretazione della canzone che fa da colonna sonora al film 007 Operazione Tuono. Era ancora 007 di Sean Connery. C'era anche il nostro Adolfo Celi che recitava il brano celeberrimo Thunderbolt. Anche nella storia di questa canzone c'è un aneddoto interessante che avviene durante la registrazione del disco nel 65. Nel finale del brano c'è un acuto piuttosto alto. Tom Jones, forse anche per la tensione, dopo aver terminato di cantare, cade svenuto sul pavimento. E lo racconterà lui stesso più volte durante alcune interviste. Lui sapeva che si stava giocando molto e quindi l'ansia probabilmente gli ha giocato quel brutto tiro, ma questo non si ripeterà mai più, perché intanto diventerà padrone di se stesso e del suo successo, che è veramente immediato. Nel 65 lui vince il Grammy Award come rivelazione dell'anno, una rivelazione che piace alle donne, diventa un sex symbol. E non è ancora finita. Quello che gli accade in quell'anno straordinario sembra il percorso della carriera di un'intera vita di un grande artista. A lui capita tutto assieme. Eh sì, perché in quel magico 1965 Warren Beatty decide di produrre un film per molti versi straordinario, perché rappresenta l'esordio come sceneggiatore e anche come attore di Woody Allen, e scrive la divertente storia di un uomo ossessionato dalle donne. Un film che all'inizio doveva avere come protagonista proprio Warren Beatty, poi la parte viene affidata a Peter O'Toole, che è bellissimo, che riduce dal grande successo di Lawrence d'Arabia e insomma che è all'apice della carriera. Con lui ci sono Peter Sellers, che ha appena fatto La Pantera Rosa, e anche quindi lui al top della carriera. E poi ci sono delle donne che sarebbero Romy Schneider, Capucine, Ursula Andress, e poi c'è Woody Allen. Insomma, è un cast stellare. La colonna sonora non è da meno, viene affidata al genio delle colonne sonore, a Burt Bacharach, che realizza uno dei suoi grandi capolavori. Il film e la canzone hanno lo stesso titolo, e tutto questo viene affidato al sex symbol del momento, Tom Jones, il cantante che tutte le donne adorano, che è perfetto per quella interpretazione. La canzone è What's New Pussycat. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Il falco e il gabbiano. Una voce grintosa, calda, potente, un fisico sensuale, insomma un vero macio, e una capacità straordinaria di stare sul palco e di conquistare il pubblico. Tutto questo e molto altro è il nostro protagonista di oggi, Tom Jones, il grande interprete gallese che raggiunge il tetto del mondo nel 1965, a 25 anni, e da quel momento non scende più, non smette di collezionare successi incredibili in tutto il mondo. Ha conosciuto, ha duettato con tutti i più grandi interpreti della musica contemporanea, è amico personale di Elvis Presley, di John Lennon, conduce show televisivi, recita la parte di se stesso in diversi film, ha sempre saputo rinnovarsi, ha attraversato 50 anni di storia sempre sulla cresta dell'onda. E nel nostro racconto siamo arrivati proprio a quel 65 che rappresenta per lui non solo l'anno del suo debutto e dell'immediato successo, ma anche quello della consacrazione, perché Tom Jones ha fatto un po' di gavetta nei piccoli club del Galles, però poi è passato direttamente dall'essere uno sconosciuto a essere una star mondiale, tutto merito della sua grande personalità, della sua voce incredibile, di una canzone straordinaria che era stata It's Not Unusual. E da quel momento è un'ascesa difficile da eguagliare. Vince il Grammy Award come rivelazione dell'anno, canta canzoni che sono colonne sonore di film, sembra quasi condensare in 12 mesi la carriera che altri compiono forse in una vita. Tanto che a questo punto il suo scopritore e manager Gordon Mills decide di rinnovare il suo look, di modificare qualcosa in lui per dare nuovi elementi al pubblico, per cementare meglio la sua popolarità, perché c'è una cosa da considerare e ce lo fa notare lui stesso, Tom Jones. My style. Il mio stile non era uno stile in, perché i Beatles e gli Stones e tutte le altre band di successo avevano tutti un'immagine da ragazzini, mentre io ero troppo macho per quell'epoca. Too macho for the time. E in effetti è vero, perché se guardate le registrazioni di quegli anni noterete che Tom Jones, che ha solo 25 anni, ha l'aspetto di un uomo fatto, è maturo, si veste in una certa maniera e insomma il suo fisico corrisponde alla sua voce baritonale, con i capelli ricci, folti, con la camicia slacciata sul petto villoso, coi bicipiti, insomma una fisicità forte e prorompente, mentre in quegli anni i suoi competitor sono figure come John Lennon, come Mick Jagger, e febiche, col capello lungo, insomma il mondo si sta muovendo in una direzione diversa. E infatti Tom Jones, come dire, nasce già vecchio dal punto di vista dell'immagine rispetto a tutte le band che in quel momento stavano cambiando il mondo, e quindi il suo manager comincia a capire il problema, gli suggerisce una serie di piccoli cambiamenti graduali e ben calibrati che gli consentono di allargare il suo pubblico, lo trasforma lentamente in un crooner, quei cantanti in grado di modulare la voce a seconda della interpretazione da dare, insomma uno alla Frank Sinatra, insomma lo sposta verso il pubblico che viene definito adult oriented, e acquista delle doti espressive più profonde. Nel 67 interpreta una canzone che incarna perfettamente questa sua nuova tendenza, una canzone country di Jerry Lee Lewis, è la storia di un condannato a morte che prima di essere impiccato ricorda quant'era bella l'erba verde di casa sua. Green Green Grass of Home. The old hometown looks the same. Insomma un Tom Jones più intimo, meno esplicito sessualmente. L'argomento trattato non è l'amore per una donna, ma una tematica spinosa, quella delle esecuzioni capitali. Insomma nell'America di quegli anni non è poco. Forse non è il filone che lui predilige, però il successo non gli manca. Però la sua personalità forte prevale, perché lui ha voglia di conquistare il pubblico, e soprattutto quello femminile, direi. E così l'anno dopo, nel 68, Tom Jones torna alla grande con uno dei suoi massimi successi. È una canzone scritta per lui ancora da Les Reed, è una canzone che raggiunge il top di tutte le classifiche, non solo negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma anche nel resto dell'Europa, in Francia, in Germania, vengono fatte molte versioni, anche in Italia. È una canzone nella quale c'è tutto il Tom Jones gallese, The Tiger, la tigre, come l'hanno soprannominato le sue gruppi, e il titolo della canzone è Delilah. È una canzone che hanno cantato in tanti, è diventata veramente un evergreen. Io mi ricordo una versione molto tirata di un gruppo che mi piaceva molto, che si chiamava The Sensational Alex Harvey Band. Comunque, Tom Jones continua a cantarla ancora oggi, l'ha cantata perfino in uno storico duetto in diretta mondiale con Luciano Pavarotti. Quando esce nel 68 Delilah è oggetto di una contestazione feroce, il motivo è il testo, la storia che racconta, e noi abbiamo in mente la versione italiana, quella che fece Jimmy Fontana, insomma un po' edulcorata, che diceva tu sarai sempre regina e io il tuo re, ma in inglese le cose non stanno così. Infatti Delilah è la storia di un femminicidio. Il protagonista racconta che passa di notte davanti alla casa della sua amata, vede dalla finestra che lei è con un altro uomo, si apposta, attende l'alba fin quando l'altro esce, poi suona il campanello, e quando Delilah gli apre la porta sorridendo, lui la pugnala a morte uccidendola. È un testo molto forte, ma nonostante questo, o forse proprio per questo, la canzone ha un successo strepitoso che da allora non conosce momenti di crisi, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. L'anno successivo, nel 69, Tom Jones parte per un lungo tour negli Stati Uniti. Si esibisce a Las Vegas, al Flamingo, poi al Caesar Palace, dove tornerà centinaia di volte, dove ogni volta non solo riscuote un enorme successo, ma subisce l'assalto delle sue fan. E si racconta di donne che gli lanciavano direttamente la chiave della camera del Caesar Palace. Va detto che lui è sposato da quando aveva 16 anni con Melinda, rimarrà sposato con lei tutta la vita. Lei è mancata recentemente, il 10 aprile del 2016, hanno sfiorato i 60 anni di matrimonio, però Una cosa è essere sposato, una cosa è essere Tom Jones. Insomma, i tradimenti di Tom Jones sono diventati famosi, come quello con Mary Wilson, una delle cantanti delle Supremes, il gruppo di Diana Ross. E si diceva che la moglie lo picchiava spesso, lui non si difendeva, se le faceva dare senza fiatare, perché sapeva che lei aveva ragione. Dopodiché c'era subito un altro concerto. Lui ha dichiarato di recente che nei suoi momenti d'oro, a 30-40 anni, aveva avuto una media di 250 gruppi all'anno. Beh, se fai 250 concerti, insomma, se può fare. Si dice che lui sia stato la prima star a ricevere sul palco lanci della biancheria intima, lo dicevamo prima, addirittura le chiavi della camera dell'albergo. Insomma, Tom Jones è un numero uno. Nel 69 è il primo artista britannico a avere uno show televisivo negli Stati Uniti, This is Tom Jones, dove lui duetta con tutti i più grandi della musica. Ascoltatelo con Stevie Wonder. I successi di Tom Jones si susseguono. Lui preferisce fare concerti piuttosto che stare in sala di registrazione. Lui ama il contatto col pubblico. Ogni tanto esce un suo nuovo album e c'è sempre una canzone di punta che diventa un successo straordinario, come She's a Lady. She's a lady. Nell'86, dopo oltre 20 anni di collaborazione con Tom Jones, Gordon Mills, il suo manager, muore e il cantante prende come manager suo figlio Mark. Con lui realizza un concept album, A Boy From Nowhere, colonna sonora della commedia musicale Matador, ed è un altro successo grandioso. Nell'87 comincia una evoluzione molto interessante da parte di Tom Jones, e intanto registra assieme agli Art of Noise una cover di Prince che lo porta ancora una volta in cima alle classifiche mondiali con il celeberrimo Kiss. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Tom Jones è ormai da anni una leggenda vivente e tutti si interrogano su come riesca a mantenere la sua voce inalterata nel tempo. Si dice che lui la curi moltissimo, che prenda regolarmente le pastiglie di Vocal Zone, un'invenzione dalla ricetta segreta creata da un chimico del Galles del Sud apposta per il grande Enrico Caruso. Probabilmente si parla di concentrazione di genetica più che di pillole. Sta di fatto che lui continua a sfornare grandi successi. Nel 99 realizza il suo album più venduto di sempre, Reload, 6 milioni di copie. Dentro questo album c'è la hit che lo riproietta in cima al mondo, Sex Bomb. Smile on me, baby, you satellite. If you read to see me move. E lui compare in diversi film e serie TV interpretando se stesso, dai Simpson a Mars Attack di Tim Burton. Fa la parte dell'angelo custode di Carlton, il fratello di Willy, nella famosissima serie Willy il principe di Bel-Air con Will Smith, e poi è coach a The Voice UK per 3 stagioni, dal 2012 al 2014. I was with Elvis Presley in Hawaii. Ero con Elvis Presley alle Hawaii. Elvis entrò in un negozio di dischi e disse alla commessa: Tom Jones viene a casa mia oggi, mi servono 2 chitarre. La ragazza è svenuta per terra. Ho tante storie da raccontarvi. Ho conosciuto Elvis, i Beatles, Frank Sinatra, Janis Joplin, Aretha Franklin, i Rolling Stones, Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Chuck Berry, Otis Redding. Ho conosciuto tutti da quando ho iniziato negli anni 60. Posso tirare fuori tanti nomi dal cilindro per dare qualche consiglio agli altri. To try and give some advice to the people. ed è probabile che lui abbia ancora qualche sorpresa da riservarci. Eh sì, perché il signor Tom Jones ha 76 anni ma dimostra ancora la vitalità di quando aveva iniziato, quindi ci aspettiamo ancora molto da lui, anche perché è uno che sa rinnovarsi, sa guardarsi attorno e non è legato musicalmente a un cliché, e questo è molto importante. Ci sono persone che hanno saputo volare in alto e poi sono ricadute. Nel caso di Tom Jones, lui ha volato in alto e poi ha solo sceso qualche piano per poi risalire ulteriormente. Insomma, una vita veramente invidiabile. Ma ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può dare quel colpo d'ala che lo può portare alle alte vette, come il falco, come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui volete che io punti il mio microfono, fatelo, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, oppure venite a trovarmi sui miei social, sui nostri social. Non dimenticate il nostro podcast per risentire delle puntate che vi sono piaciute o ascoltare quelle che vi siete perse. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.